Fedele menzognera, ti ci ho preso, ti ci ho colto, non son cieco, non son stolto, e mi voglio vendicar. Non son cieco, non son stolto, e mi voglio vendicar. Nella parla sporca quel miglior non son cieco, non son sordo, né mi faccio cor melar. Non son cieco, non son sordo, né mi faccio cor melar.